Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, l'Italia dunque riprende dopo il periodo delle ferie estive. Sicuramente siamo tutti consapevoli di essere a una svolta, di essere in mezzo a uno di quei grandi cambiamenti che periodicamente e radicalmente trasformano il nostro paese. Uno di questi passaggi è analizzato nel libro che vi presento oggi, di cui autore Fausto Colombo, si intitola Il paese leggero, gli italiani e media tra contestazione e riflusso, è pubblicato dalla Terza, 300 pagine, 22 euro. Il periodo preso in considerazione dal libro è quello fra il 1967 e il 1994, cioè gli anni che secondo l'autore pongono le premesse della Seconda Repubblica, considerata come il risultato, scrive, di una svolta nell'immaginario italiano e nei discorsi che lo percorsero. E l'immaginario, secondo l'autore, sarebbe costituito da quell'insieme di discorsi, immagini, consapevolezze vere e presunte sulla realtà che i membri di una società condividono senza quasi avvertirne la provenienza, quasi identificandole con la propria quotidiana esperienza della vita sociale. In questo processo un ruolo centrale sarebbe stato svolto da Berlusconi per la capacità di radicarsi nel discorso sociale egemone, come scrive l'autore, un discorso che divise drasticamente gli anni 70 dagli anni 80, i primi considerati ormai nella versione più accettata come gli anni bui, gli anni di piombo, e i secondi come invece gli anni 80, come anni di grande dinamismo, di nuova imprenditorialità, di arricchimento. Fedele al suo spirito, questo libro è diviso non per capitoli, ma come in uno spettacolo teatrale, in due atti, un intermezzo e un epilogo. E sentiamo allora l'autore sullo svolgimento di questa commedia italiana. Buongiorno a Fausto Colombo. Buongiorno, buongiorno a tutti. Fausto Colombo, lei allora parla di un paese leggero e spiega che questa leggerezza sarebbe anche la conseguenza della devastazione della cultura tradizionale. Lei parla di progressivo smantellamento delle istituzioni culturali, di definitiva rinuncia al ruolo pedagogico della produzione intellettuale, di esaltazione dell'entertainment come pratica culturale sostanzialmente unica. Insomma, cos'è successo nel nostro paese? Ma l'idea di fondo del libro è che sia avvenuto qualcosa fra gli anni 70 e gli anni 80, diciamo, in un periodo compreso fra la contestazione all'AMA, la morte di Moro, fino all'82. E raccontando sia il decennio precedente, quello della contestazione, sia quello seguente, cioè quello del riflusso, provo a descriverlo. In sostanza siamo passati da una cultura della partecipazione a una cultura dell'individualismo, da una cultura ancora tradizionale, sia pure con l'illusione di poterla democratizzare, diffondere, ma una cultura degli anni 70 ancora basata sull'autore, sull'idea di una trasmissione un po' di tipo scolastico, eccetera, siamo passati al trionfo invece di una cultura un po' prêt-à-porter, dove gli intellettuali tradizionali contavano sempre meno, dove valeva di più il giudizio del pubblico, dove in qualche modo per trovare consenso nel pubblico si cercavano le strade anche più ovvie, più basse, eccetera, una specie di decadenza e di delegittimazione della cultura tradizionale. Invece negli anni 70, come lei accennava, la cultura aveva un ruolo centrale, ma questo era anche un riflesso della forza ideologica di quegli anni? Nel mio libro provo a dire che c'erano due spinte molto, molto diverse e anche contraddittorie, il che spiega forse parte di quello che è successo dopo. Allora, la prima spinta era certamente di tipo ideologico, o perlomeno, mi si passi il termine, ideale, cioè quella di rinnovare la cultura, ma lasciandola fondamentalmente immutata nei suoi meccanismi di trasmissione. Immaginiamo cosa vuol dire l'idea che il vero cinema sia il cinema d'autore, come il testo letterario. Certo che nella democratizzazione emerge anche l'idea di un egualitarismo della cultura, la cultura per tutti, la cultura a disposizione in modo gratuito. E questo secondo elemento finisce per confluire nel grande sogno degli anni Ottanta, che è quello di avere, non so, tutto il cinema a disposizione nelle televisioni commerciali finanziato attraverso la pubblicità, di avere la possibilità di consumi anche culturali piuttosto larghi a basso prezzo, il che naturalmente comporta delle conseguenze piuttosto pesanti, perché per arrivare a questo poi la cultura cambia, non è più la stessa, diventa un altro tipo di circuito. Ecco, fermiamoci un momento al passaggio, cioè agli anni 70. Lei dice che la trasformazione che poi sfocerà in quello che chiamammo il riflusso sarebbe stato anche segnato, simboleggiato da un libro, La storia di Elsa Morante. In che senso? Beh, perché la storia di Elsa Morante, a giudizio di molti, anche commentatori dell'epoca, la Rossanda per esempio, eccetera, è un libro che segnala il passaggio, diciamo, dalla speranza alla disperazione, da una visione utopistica a una visione disperata della storia con la S maiuscola, e d'altro lato la scelta editoriale, la scelta anche dell'autrice, è quello di farne un libro immediatamente in edizione economica. È un doppio segnale, è un segnale che l'editoria appunto cerca una forma di democratizzazione molto ampia, e insieme però arrivano i segnali, il riflusso cioè della rinuncia progressiva, del senso di sconfitta. Se posso aggiungere una cosa, un altro bel esempio però molto ambiguo di quegli anni è Fantozzi di Paolo Villaggio, che è una serie di libri che parla di un soggetto apparentemente scomparso dal dibattito politico-culturale, il classico impiegato, l'erede di Monsù Travet, le cui vicende tragicomiche però non mettono in discussione, non, nel senso del tentativo di rivalsa, la struttura di potere esistente, no? È come se fosse data per irreversibile, non ci resta che ridere di questo impiegato, di questa figura che non ha nessun'ansia di riscatto, le cui ansie di riscatto vengono frustrate. E infatti la filmografia ha una parte importante nel suo libro, perché diventa uno specchio della sua analisi. Com'è cambiata la filmografia in quel venticinquennio? Beh, si passa appunto dal cinema d'autore, come lo dicevo, insieme a tutti i suoi riti, perché il cinema d'autore non sono solo i film, ma sono le riviste cinematografiche, sono i mitici Cineforum, che poi appunto Fantozzi sbeffeggia, ma anche Nanni Moretti sbeffeggia a un certo punto nei suoi film, e al passaggio a un cinema invece più di diretto consumo. Direi che in quegli anni finisce la grande tradizione di sintesi della commedia all'italiana. Ci sono due film decisivi da questo punto di vista a metà degli anni 70, uno è C'eravamo tanto amati di Ettore Scola e l'altro è Un borghese piccolo piccolo di Monicelli, e finisce la commedia all'italiana, è come se finisse in qualche modo l'estremo tentativo di sintesi tra un cinema d'autore e un cinema di puro intrattenimento. Quello che verrà dopo sarà anche nelle sue forme più alte, più divertenti, penso a Benigni, a Troisi, a Verdone, eccetera, sarà in qualche modo un cinema più direttamente di intrattenimento. Nell'arrivare ai tempi nostri, lei denuncia il fatto che coi nuovi media la logica non cambia e sostanzialmente abbiamo di fronte la stessa spettacolarizzazione che è esplosa negli anni Ottanta. Ah beh, certo, cioè da un lato i nuovi media rinfocolano la possibilità di una più ampia democratizzazione, ridanno voce in qualche modo alla cittadinanza che non è più solo pubblico ma anche più partecipe, in qualche modo riaprono la partecipazione. Ma dall'altro, se andiamo a guardare poi la maggior parte dei contenuti, c'è da chiedersi se non siamo ancora in parte prigionieri, no? Se molti dei contenuti che circolano sulla rete non sono ancora i contenuti della televisione e, nel migliore dei casi, non sono ancora i contenuti degli anni passati o dei decenni passati, con un'operazione di recupero. Una fase nuova di svolta, ma una fase critica, come sappiamo tutti drammaticamente in questo periodo. Ecco, la sua conclusione quindi qual è? Che l'Italia si avvia a diventare, se non più pesante, più solida nei prossimi anni? Vorrei dire che più che la mia previsione, il mio auspicio, io ho cercato di raccontare attraverso questo libro le vicende dei media e le vicende del paese, insistendo soprattutto su una visione critica e sulla rilettura dei momenti più difficili del paese, con sottotraccia l'idea che nei momenti difficili il nostro paese e i nostri connazionali hanno dato il meglio di loro. C'è un piccolo esempio che mi permetto di richiamare, ed è una intervista a Borsellino poco prima di essere ucciso, che dice: io non mi sento sopravvissuto, mi sento una persona che sta per essere uccisa, adesso brutalizzo le sue espressioni, ma penso che ne valga la pena, penso che valga la pena di fare il mio mestiere, penso che valga la pena di fare il mio dovere. Ecco, i media ci hanno restituito, come dire, l'assassinio di Borsellino, ma ci hanno anche lasciato la sua testimonianza. Sta a noi scegliere se vogliamo semplicemente disperarci o ascoltare queste voci che parlano anche di noi e decidere che possiamo sempre rilanciare, possiamo tentare di risollevarci. Grazie a Fausto Colombo, autore del Paese Leggero. Buona domenica. Buona domenica, grazie a voi, arrivederci. E a proposito di media, per capire come funzionano i giornali, vi segnalo il libro Lezioni di giornalismo di Giovanni Sant'Ambrogio, un giornalista che ha lavorato molti anni al Sole 24 Ore, pubblicato il libro dalla scuola, 23 euro, 412 pagine. Lezioni di giornalismo si intitola, dicevo, ma questo non è un libro dedicato esclusivamente ai futuri professionisti. Tutti coloro che hanno ancora passione e sentono ancora il fascino dell'informazione troveranno molto utile questo libro, che è veramente istruttivo, anche perché accompagnato da testimonianze e illustrazioni con le pagine più celebri e significative della stampa italiana. Sicuramente questo libro è un atto di amore, di fiducia nei confronti dell'informazione e della professione, ma è anche un libro pratico. Si impara infatti come si fa un giornale, come si diventa giornalisti, quali siano le tecniche, insomma un breviario sull'informazione anche per chi magari crede che l'unico futuro dell'informazione stia nella rete e nei blog. Io non sono di questa scuola. A chi continua a sentire il fascino della scrittura, segnalo il libro Sei proprio il mio tipo, anzi il mio typo, perché la I è greca, di Simon Garfield, che è un giornalista inglese, pubblicato da Ponte le Grazie, 364 pagine, 22 euro, tradotto da Roberta Zuppet. Come scriviamo? Che caratteri usiamo quando ci avviciniamo al nostro computer, che ormai ci dà tanta possibilità di scegliere fra queste quella font, come si dice in linguaggio tecnico? Come nascono queste font? Nel libro troviamo una risposta a queste domande. E il libro diventa così una storia non solo dei caratteri tipografici, ma soprattutto dell'editoria, e ci fa anche da guida nella scelta dei caratteri da usare. Si può anche diventare famosi a inventare un carattere, anche se molti ignorano che dietro ognuno di quei caratteri c'è un vero e proprio creativo. Il libro, accanto ai caratteri più belli e più fortunati, presenta anche la classifica delle font più brutte del mondo, magari ammantate da ragioni ideologiche o ecologiche. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. Parlavamo poco fa di svolte, certamente questo è un momento nel quale attraversiamo una fase difficile, ne siamo tutti consapevoli. Allora può essere utile, sulla crisi che sta attraversando l'euro, l'Italia e l'Europa, leggere il libro di Paolo Savona, che è un economista, ex banchiere, già ministro, intitolato Eresie, esorcismi e scelte giuste per uscire dalla crisi, il caso Italia, pubblicato da Rubbettino, 104 pagine, 12 euro. Anche qua un libro non per capitoli, ma per interludi aperti e chiusi, da un prologo e da un epilogo, e anche qui una riflessione profonda sulla società italiana e sulla sua antropologia, e che spiegherebbe molte delle ragioni della crisi e del debito pubblico. E allora, per uscirne, dice Savona, bisogna valutare bene le cause e i meccanismi di soluzione. Tra le cause ci sono molte eresie, appunto, che l'autore indica, intese come vicende che possono essere considerate frutto di errori politici, non di rado accompagnati dal applausi degli elettori, e poi appunto le soluzioni, e quindi gli esorcismi li chiama Savona, cioè i provvedimenti che si è ritenuto fossero necessari per uscire dalla crisi reale, dalla percezione dei suoi effetti negativi, ma che non hanno risolto i problemi perché non hanno aggredito le cause, ma solo tentato di sanarne gli effetti. E poi ci sono appunto quelle che indica Savona, le scelte giuste. E Savona indica punto per punto le eresie, le soluzioni, e analizza appunto gli esorcismi e conclude sulle scelte giuste, partendo da un'analisi che va contro molte opinioni diffuse, sottolineando i limiti del processo che ha dato vita all'euro, i vincoli che esso ha posto alle economie nazionali, all'Italia, e gli autentici errori che sono stati commessi. Un libro quindi attuale, divulgativo e chiaro, che può far capire come le scorciatoie siano molto difficili da percorrere. Secondo molti, questa crisi è una crisi che affonda le sue radici nella scelta ideologica che si è fatta molti anni fa di abbracciare con eccessiva convinzione le ragioni del liberismo, e insomma la colpa sarebbe tutta di Adamo Smith. Ma Adamo Smith fu davvero l'arcigno profeta della mano invisibile? No, dice il curatore del volumetto che adesso vi presento, nel quale viene raccolto l'essenziale di Adam Smith. Il libro si intitola L'economia dei sentimenti, pubblicato da Donzelli, 456 pagine, 9,50 euro, ed è curato da Michele Bee. Quindi qui abbiamo una lettura di un altro Smith, quello della teoria dei sentimenti morali, del filosofo. Una lettura che serve a completare l'insegnamento di Smith, economista, e sottolinea la stretta connessione tra morale ed economia. Il curatore lo fa attingendo ai due maggiori capolavori del grande economista scozzese, cioè La ricchezza delle nazioni e appunto La teoria dei sentimenti morali. Ma che tipo di crisi è quella che stiamo attraversando? In questa emergono molti aspetti apparentemente paradossali, e il paradosso italiano è il titolo del libro di Franco Ferrarotti, uno dei padri, se non il padre, della sociologia italiana, sottotitolato La povertà di un paese ricco, ecco il paradosso, pubblicato da Solfanelli, 138 pagine, 11 euro. Il paradosso è fatalmente illustrato: l'Italia è un grande paese industriale, ormai ricco, ma con forti sperequazioni. Si calcola, infatti, scrive Ferrarotti, che il 10% delle famiglie italiane detenga il 70% della ricchezza nazionale. Nonostante questo, ci sono delle sacche di povertà accentuate e crescenti, e Ferrarotti indica tre mali per spiegare questo parossismo: il masochismo italiano, riflesso del frammentarismo fazioso nei suoi riverberi all'estero, il fatto che le tre grandi tradizioni culturali italiane, cioè quella cattolica, liberal-democratica e quella marxista, non sembrano in grado di interpretare il processo di industrializzazione per quello che è, un processo sociale globale, e infine il mercato, che non appare in grado di offrire direzione di marcia al processo storico né di garantire un tempestivo autoequilibrio. E quindi in questo libro Ferrarotti analizza le varie forme assunte dalle diverse manifestazioni del disagio, disagio al quale l'autore reagisce indicando i rischi principali che stiamo correndo in questo momento, e cioè il fatto che la società diventi totalmente amministrata, scrive, e in cui cresca la disuguaglianza sociale, in cui deperiscano l'idea di prossimo, l'involontarietà del pensare creativo. Senza un soprassalto di generosità e di intelligenza ci si attende un mondo ipertrofico e inaridito. E un'analisi sulla povertà è quella di una nota economista francese, Esther Duflo, scritta con un professore indiano che attualmente insegna all'MIT, Abhijit Banerjee. Si intitola il libro L'economia dei poveri, capire la vera natura della povertà per combatterla, è pubblicata da Feltrinelli, 316 pagine, 35 euro, ed è tradotto da Adele Olivieri. Il libro cerca di smontare molti luoghi comuni, partendo magari dalle piccole cose. Scrivono infatti i due autori che le aspettative mal riposte, la mancanza di fiducia e gli ostacoli apparentemente trascurabili possono essere devastanti. Premendo la leva giusta si possono innescare enormi cambiamenti, ma spesso è difficile sapere dove si trovi quella leva. E allora bisogna partire dagli effettivi bisogni delle popolazioni più povere e dal modo in cui i poveri del mondo prendono le loro scelte. Ci si potrebbe accorgere allora che la microfinanza, scrivono i due autori, è utile pur non essendo quel miracolo che alcuni speravano che fosse. Si può anche scoprire perché i poveri spesso finiscano per chiedere cure sanitarie che fanno più male che bene, oppure perché i bambini poveri frequentano la scuola per diversi anni senza imparare nulla, oppure ancora perché i poveri non desiderano un'assicurazione sanitaria, o infine perché tante formule magiche di ieri sono diventate oggi idee fallimentari. E quindi il libro conduce una diagnosi su tanti aspetti, dalla sanità alla nutrizione all'istruzione alla propensione a risparmiare, e sottolinea l'importanza degli aspetti istituzionali ai quali è dedicata la seconda parte del libro. Insomma, concludono i due autori, serve una paziente capacità di comprensione per identificare le trappole, così le chiamano, della povertà, laddove ci sono e quali strumenti si devono dare ai poveri per aiutarli a uscirne. In campo economico vi segnalo un grande classico pubblicato nei Tascabili economici Newton Compton a 4,90 euro, La storia economica e sociale del Medioevo, di Henri Piren, il grande storico nato 150 anni fa in Belgio. Il libro è tradotto da Maurizio Grasso, 230 pagine. Questo, dicevo, un grande classico dell'economia che ruota intorno a una convinzione sottolineata da Ludovico Gatto nella sua introduzione al libro, e cioè il fatto che allorché i Germani, scrive Gatto, si posero come conquistatori dei Romani, il vincitore si era portato quasi spontaneamente verso il vinto. Invece, quando si delineò l'affermazione araba nel Mediterraneo, si verificò il contrario: fu il vinto ad andare verso il vincitore, e ciò in quanto gli arabi non furono assorbiti dai romani. Proprio ciò, dunque, dette vita a un nuovo rapporto e quindi al superamento dell'età antica. Nella stessa serie di classici Newton Compton è uscito di Albert Einstein Il mondo come io lo vedo, tradotto da Walter Mauro, sempre 4,90 euro per 126 pagine. Questo è un libro del 1934 che contiene le lettere e gli scritti non scientifici di Einstein, tra i quali troviamo gli scritti sulla cultura ebraica, di cui Einstein era molto fiero, tanto più naturalmente negli anni delle persecuzioni naziste, come dimostra questo brano che adesso vi propongo dal libro. La ricerca del sapere fine a se stesso, un amore quasi fanatico per la giustizia e il desiderio di indipendenza personale. Sono questi i tratti della tradizione ebraica che mi fanno rendere grazie alle stelle perché ne faccio parte. Quelli che al giorno d'oggi infuriano contro gli ideali della ragione e la libertà individuale e cercano di edificare un'avvilente schiavitù di Stato con la forza bruta, a ragione vedono in noi i loro inconciliabili nemici. La storia ci ha serbato un osso duro, ma fin tanto che restiamo devoti servi della verità, della giustizia e della libertà, continueremo non solo a sopravvivere come il più antico popolo vivente, ma mediante il lavoro creativo continueremo a produrre frutti che contribuiscono alla nobilitazione della razza umana, come è stato finora. A proposito di Einstein, vi segnalo il libro Einstein in 3 minuti, vita, teorie ed eredità di un genio, di Paul Parsons, che è un giornalista inglese esperto di divulgazione scientifica, 160 pagine, €19,95, tradotto da Simone Monticelli per Logos. Magari occorreranno un pochino più di 3 minuti, ma il libro è molto utile ed efficace, ci sono molte immagini, pochi testi e del resto molto semplice per accostarci alla vita e alle scoperte del grande scienziato che diventò, come ricorderete, un autore. Autentico mito, soprattutto quando poi andò negli Stati Uniti. Troviamo qui una guida alle scoperte di Einstein e una guida per capire le conseguenze, il significato e l'eredità del suo insegnamento. Nella stessa serie di Logos troviamo di Donald Marron, che è un economista americano, tradotto da Sara Crimi, Economia in 30 secondi, e dove ci sono dei piccoli saggi divisi per scuole di pensiero presentati in 30 secondi e poi dei capitoli dedicati ai sistemi economici, ai grandi economisti, e grandi temi. E poi un altro volume, Matematica in 30 secondi, 50 teorie fondamentali in mezzo minuto, curato da Richard Brown, che è un matematico alla John Hopkins University, tradotto da Simone Monticelli. Ricordo l'editore Logos, €19,95 ciascuno. Qui nel libro sulla matematica troviamo numeri, statistiche, algebra, geometria e tanti matematici, e insomma ci possiamo accostare con le immagini, con i testi brevi e chiari, al fascino che per molti resta nascosto e misterioso della matematica. Si ricollega Einstein il libro di uno dei più importanti scienziati inglesi, un matematico e fisico, John Barrow, che si intitola Il libro degli universi, è pubblicato da Mondadori, 360 pagine, €20, tradotto da Laura Serra, sottotitolo Guida completa agli universi possibili. Si parte appunto nel libro da Einstein, perché fu lui con le sue scoperte e le sue intuizioni a indicare la strada dei tanti universi. Albert Einstein, scrive l'autore, ci ha mostrato come descrivere universi, interi universi possibili. Albert Einstein aggiunge, ci mostrò come trovare tutti gli universi possibili che siano coerenti con le leggi della fisica e con la gravità, e come ricostruire il loro passato e prevedere il loro futuro. Ma trovarli davvero non era un'impresa facile, e il libro racconta questa impresa affascinante catalogando i mille e mille universi che si possono immaginare. Per esempio troviamo gli universi singolari, gli universi asimmetrici, gli universi casuali, gli universi arrotolati su se stessi, eccetera, eccetera, eccetera. Un viaggio insolito nei paradossi scientifici è Pinocchio nel paese dei paradossi, viaggio tra le contraddizioni della logica, di Alessio Palmero Prosio, pubblicato da Sironi, 158 pagine, €14. Il burattino qua diventa l'occasione, partendo dalle citazioni del libro di Collodi, per una serie di riflessioni logico-matematiche. Per esempio si parte con la rissa tra Mastro Ciliegia e Geppetto, che dimostra come situazioni che non riusciamo a comprendere possano dare vita a conflitti insanabili. E a questo punto... Il confettino. Un libro che è anche un aiuto per imparare a leggere e a fare i primi numeri è Crichtor, il serpente buono, di Tommy Ungerer, tradotto da Emilia Flora Sala, 32 pagine, €12,90, pubblicato da Electa Kids, un classico a suo modo dal tratto quasi di altri tempi, che insegnerà attraverso questo serpente buono appunto a comporre numeri e lettere. E con questo ringrazio Luca Cremonesi, redazione, Gianmarco Ferronato in regia, e vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it. E il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.